47. Minestrone. Il minestrone mi richiama alla memoria un anno di pubbliche angosce e un caso mio singolare. Mi trovavo a Livorno al tempo delle bagnature l'anno di grazia 1855 e il colera che serpeggiava qua e là in qualche provincia d'Italia teneva ognuno in timore di un'invasione generale che poi non si fece aspettare a lungo. Un sabato sera entro in una trattoria e dimando: «Che c'è di minestra?» «È il minestrone», mi fu risposto. «Ben venga il minestrone», dissi io. Pranzai e fatta una passeggiata me ne andai a dormire. Avevo preso alloggio in piazza del Voltone, in una palazzina tutta bianca e nuovissima, tenuta da un certo Domenici. Ma la notte cominciai a sentirmi una rivoluzione in corpo da fare spavento. La onde, passeggiate continue a quel gabinetto, che più propriamente in Italia si dovrebbe chiamar luogo scomodo e non luogo comodo. «Maledetto minestrone, non mi buscheri più!» andavo spesso esclamando, pieno di malanimo, contro di lui che era forse del tutto innocente e senza colpa veruna. Fatto giorno e sentendomi estenuato, presi la corsa del primo treno e scappai a Firenze, ove mi sentii subito riavere. E lunedì giunge la triste notizia che il colera è scoppiato a Livorno e per primo ne è stato colpito a morte il Domenici. Altro che minestrone! Dopo tre prove, perfezionandolo sempre, ecco come lo avrei composto a gusto mio, padronissimi di modificarlo a modo vostro, a seconda del gusto d'ogni paese e degli ortaggi che vi si trovano. Mettete il solito lesso e per primo cuocete a parte nel brodo un pugnello di fagioli sgranati, ossia freschi. Se sono secchi, date loro mezza cottura nell'acqua. Trinciate a strisce sottili cavolo verzotto, spinaci e poca bietola. Teneteli molle nell'acqua fresca, poi metteteli in una cazzaruola all'asciutto e, fatta che abbiano l'acqua sul fuoco, scolateli bene, strezzandoli col mestolo. Se trattasi di una minestra per 4 o 5 persone, preparate un battuto con grammi 40 di prosciutto grasso, uno spicchio d'aglio, un pizzico di prezzemolo, fatelo soffriggere, poi versatelo nella detta cazzaruola insieme con sedano, carota, una patata, uno zucchino e pochissima cipolla, il tutto tagliato a sottili e corti filetti. Aggiungete i fagiuoli, se credete, qualche cotenna di maiale come alcuni usano, un poco di sugo di pomodoro o conserva, condite con pepe e sale e fate cuocere il tutto con brodo. Per ultimo, versate riso e in quantità sufficiente onde il minestrone riesca quasi asciutto e prima di levarlo gettate nel medesimo un buon pizzico di parmigiano. Vi avverto però che questa non è minestra per gli stomachi deboli.